agonia de sole. Penso a te, che non vuoi bene a me. Canteno nell'aria le parole, e so quelle parole che non vorrei sapere. Mi dice sempre il cuore, sta zitto, non parlare. Nemica dell'amore è la sincerità. Ma quando tu mi guardi, io non so più mentire. Te voglio tanto bene. Già la luna, canto a te che non vorrei vedere. Perfida sei tu come nessuna, però come nessuna.